Quando hai dei colleghi nuovi, c'è sempre imbarazzo. Quell'imbarazzo che c'è tra gli sconosciuti. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 7 minuti. Questa è Radio 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. Ognuno di noi quotidianamente è circondato, o comunque sfiorato, da decine di persone. Sì, certo, dipende dal lavoro che uno fa, dal posto in cui vive, dalle sue abitudini. Però, essendo l'uomo un animale sociale, le persone che ci circondano sono molto più di quante noi ora, anche solo contandole, riusciremo ad immaginare. Ci sono gli amici che incontriamo dal vivo e quelli che incontriamo su Facebook, quelli che chiamiamo ogni giorno, oppure che sentiamo una volta ogni tanto, quando capita. Ci sono i genitori, che vediamo la mattina e la sera, se ci viviamo insieme, e i figli, se ne abbiamo. C'è la moglie che si sveglia di fianco a noi tutte le mattine, oppure il marito, che dobbiamo svegliare, perché non faccia tardi al lavoro. C'è il fidanzato che vediamo solo quando lo raggiungiamo, ma che è sempre con noi, con il cellulare o con Skype. Ci sono i vicini di casa, di banco e di tram. Ci sono i compagni di viaggio, se siamo pendolari, o quelli di bar, se siamo abitudinari. E poi ci sono loro. Quelli che frequentiamo quotidianamente, volenti o nolenti. Quelli con cui condividiamo la parte più faticosa, più noiosa, se va bene per qualcuno, più soddisfacente delle nostre giornate. I colleghi di lavoro. Come tutto quello che ha a che fare con il lavoro, i colleghi sono a metà strada tra una condanna e un sollievo. Ce ne sono alcuni che alleggeriscono le giornate, ce ne sono altri invece che contribuiscono a renderle insopportabili. Ci sono colleghe che le donne detestano perché vengono al lavoro vestite come delle vamp e che poi non si lamentino se pensano di lei che è una che non ha altre carte da giocare. Ci sono colleghi che non si salutano nemmeno e non si saluteranno mai perché si sono fatti degli sgarri irrecuperabili. C'è quello ciccione antipatico e quello schizzato e piacevole anche se non combina niente. C'è quello anziano che ci tiene a far vedere a tutti quanto ne sa più degli altri e quello che non gliene frega niente di niente e sta tutto il giorno su Facebook. E poi, tra tutti questi colleghi, ce n'è uno, o una, che è talmente vicina a noi che anche se non diventiamo amici per la pelle, anche se non nascerà un amore, rimane nella nostra testa come un emblema del collega di lavoro. Quello per cui si è felici di andare al lavoro, quello da cui si impara, o che fa fare quattro risate sempre, anche nelle giornate storte. Quello che, anche se è un capo, non te lo fa pesare. E ti fa pensare che forse quel lavoro lì vale la pena di farlo, perché fare bene un lavoro, qualunque esso sia, ci rende migliori, anche di poco, anche di tanto così. Insomma, non ce li scegliamo, ci passiamo gran parte della nostra giornata, condividiamo le cose più divertenti o più noiose della nostra vita. Sono i colleghi di lavoro. Ecco, oggi io vi racconto dei miei. Se voi, però, ne avete qualcuno che nel bene o nel male non dimenticherete mai, io sono qui. Il numero è sempre quello, è 80024 0024 per telefonare in diretta, oppure 349 238 6666 per mandare un messaggio e raccontarmi di quella cosa lì, di un collega di lavoro. Eviterei robe sdolcinate tipo i colleghi che mi sono rimasti nel cuore perché erano persone adorabili. Io parlo proprio di quei colleghi che sono dei simboli, che ci sono rimasti in testa, nel bene o nel male, non solo perché ci volevamo tanto bene, perché poi quella roba lì del collega, come ricorda sempre Alessandro Marcotulli, che adesso dirà in redazione neanche ci sente, comunque è una frequentazione coatta, cioè non l'abbiamo scelto noi, siamo obbligati a stare con quelle persone, quindi poi riusciamo magari a cavarne il meglio o il peggio da quel rapporto, però comunque non ce lo siamo scelti noi. E vorrei veramente sapere quanti di quel, quando uno va in pensione oppure quando cambia posto, viene trasferito, di tutti quei, guarda, no, ma veramente ci sentiamo, rimaniamo in contatto, guarda, organizziamo magari una cena qualche volta, senti, ce l'hai il mio numero, ma ci sentiamo su Facebook. Quanti di quelli poi veramente si frequentano? Non è un problema, è che è così, è che sei colleghi di lavoro e non lo si è scelto noi. Però in compenso, se c'è qualcuno che ci è rimasto in testa, che vi è rimasto in testa, 80024 0024 oppure 349 238 6666. Io, come vi raccontavo già venerdì alla BIT, ho cominciato un nuovo piccolo lavoro che non durerà tanto ed è compatibile con quello che vi racconto tutti i giorni. Lo faccio la mattina, lo faccio in un posto che è una biblioteca e lo faccio in un posto dove ci sono due colleghi di cui a breve vi racconterò. Francesca, però, ad esempio, sul profilo Facebook mi scrive: di lavori io ne ho cambiati tanti, quindi quindi ho avuto colleghi di tutti i tipi, gentili, collaborativi, divertenti, invidiosi, scaricabarili, leggevo scaricabili, diciamo, tutti sono scaricabili, paternali, mobbizzatori, ma uno era incredibile. Sto parlando di 18 anni fa. Era di una certa età, anche se nessuno sapeva esattamente quanti anni avesse. Era una decana dell'ufficio, con un'esperienza di lunga data, ma refrattaria ad ogni innovazione tecnologica. Era un'impiegata di vecchio stile, sapeva stenografare perfettamente e utilizzava perfettamente la macchina da scrivere. Innanzitutto doveva stare lontana da fotocopiatori, condizionatori, stampante, perché erano possibili fonti di male incurabili, secondo lei. E soprattutto il computer, che ormai si cominciava a usare in tutti gli uffici, era il suo più acerrimo nemico. Su malgrado considerata l'importanza di quell'ufficio, e per non essere mandata via dalle alte sfere, era stata costretta a imparare a usare un pochettino il computer. Potete immaginare l'approccio. Passavamo il tempo a spiegarle come utilizzare quella macchina infernale. Tanto di cappello, però, per la sua volontà. Questa era Francesca. Anche Chiara, però. Chiara, sì. In 5 anni di lavoro in banca ho avuto colleghi più impensati. Con molti di loro è nata una sorta di amicizia lavorativa, con altri. Ecco, amicizia lavorativa mi sembra una buona definizione. Con altri ho siglato un patto di non belligeranza. Tra quelli che ricordo con un sorriso c'è Giorgio, abbiamo lavorato insieme nel suo ultimo anno di lavoro prima della pensione, o meglio prima che lui fosse ufficialmente dichiarato esuberante dalla banca e mandato in prepensionamento. Sono stati 6 mesi in cui era un vero spasso andare al lavoro. Sì, però Chiara, magari riscrivimi e dimmi perché, spiegami chi era Giorgio e cosa faceva e quanti anni aveva e magari anche che fine ha fatto. 800240024 349 238 6666. Questi sono i miei colleghi. Oggi è stata la mia seconda volta. Non posso più dire che sia tutto nuovo, insomma. Ho già avuto una buona dose di cosa significhi dire lavorare in biblioteca. Odori, orari, pause, pause caffè, pause sigarette, libri da consegnare e compiti. Timori e tremori del cominciare un'avventura, insomma, so tutto. Adesso mi mancano le persone. Ora devo capire chi è la gente che ho intorno, con chi condividerò le prossime settimane. I miei colleghi, insomma. Cioè, io lo so come si chiamano, sono Ciccio e Nonna Papera, perché sono uno grasso e una vecchia. Forse è giusto che li conosca un pochettino meglio. Dunque, innanzitutto, mi sembrano due persone per bene. Anche solo per avere dato una mano a coprire Giovanni invece di girarsi dall'altra parte e denunciare la sua assenza dal posto di lavoro. Loro chiaramente hanno dei nomi di battesimo, ma sono scritti sul badge, quello che dobbiamo portare al petto. E quella mi sembra un'abitudine così antipatica che preferisco non usarli. Il badge nel settore pubblico è stato inserito per aiutare l'utente, così che possa riconoscere chi ha davanti, chiamarlo per nome e così avvicinare lo Stato al cittadino. È che non mi pare che funzioni granché. Forse invece serve a chi vuole fare causa a qualcuno che magari non l'ha servito bene, così sa nome e numero di matricola. Da quando sto da questa parte del bancone sono molto più indulgente verso chi lavora nel servizio pubblico. E io non sono uno gentile di solito, anzi sono sempre stato uno di quelli pronti a criticare le lunghe attese, le facce cupe, i disservizi, oppure l'abuso della lingua italiana, la scortesia. Insomma, non sono mai stato uno tollerante quando andavo in posta o all'anagrafe. Era uno di quelli che brontolava con chi era in fila insieme a me, no? Rimpiangendo tempi in cui non c'era gente antipatica dall'altra parte del vetro, in cui le code erano meno infinite, in cui si sorrideva. Ecco, non lo so perché facessi così. Probabilmente perché ero un cretino. Perché alla fine lamentarsi è lo sport nazionale, e io l'ho imparato sin da piccolo, come tutti. E disimpararlo ci vuole un po'. Ma i colleghi, dicevamo, dunque Ciccio ha circa 40 anni, pelato, con gli occhiali, chiaro di carnagione, indossa per il secondo giorno consecutivo una felpa con sopra il nome di un'università americana. E non so che cosa, ma qualcosa mi dice che vedrò ancora quella felpa. Ciccio sembra uno piuttosto abitudinario, lo vedo nei suoi movimenti. Non sono mai inaspettati, fa tutto quasi senza guardare, come se fosse comandato da una forza più grande di lui. L'unico suo problema, per il momento, è che non ti guarda mai negli occhi. Avete presente, no? Ecco, per il resto però mi sembra simpatico. Come tanti ex giocatori di rugby, zoppica un po'. È timido e ha il naso schiacciato, ma parla a bassa voce ed è estremamente gentile con tutti. Nei confronti di Nonna Papera ha una specie di venerazione. Sorride ad ogni suo gesto, la segue quando lei dice che è ora di fare una pausa. Ciccio è buono, Nonna Papera invece no. Ascolta, chissà se ridono. E se capiscono il perché, pochi ambulanti soffrigono musica, la la la, la la la la la la la la. Quando hai dei colleghi nuovi c'è sempre imbarazzo. Quell'imbarazzo che c'è tra gli sconosciuti, fondamentalmente. Però c'è anche il senso confortevole di avere al tuo fianco qualcuno che ha il tuo stesso padrone, ad esempio, che guadagna quanto te e deve timbrare il tuo stesso cartellino. Qualcuno che ha come scopo il bene del tuo medesimo utente e che la mattina, quando si alza dal suo letto di parabiago o di quarto giaro, deve andare nello stesso posto in cui devi andare tu. C'è qualcosa che unisce i colleghi, qualcosa che li unisce come unisce i soldati in trincea o i fedeli a messa. Si diventa tutti un po' fratelli. Ecco, i problemi arrivano dopo. Arrivano quando la trincea va difesa e qualcuno si gira dall'altra parte. Oppure quando i matrimoni o i figli arrivano agli altri e a te invece arrivano solo i funerali. Io spero che il mese che passerò qui non sarà abbastanza lungo da farci odiare l'uno con l'altro. Io, Ciccio e quella iena di Nonna Papera, che poi, iena, forse sto esagerando, però sembra proprio quella cosa lì. Dunque, Nonna Papera è la leader indiscussa della biblioteca. Ha circa 60 anni. Ha quella sicurezza di chi ha vissuto tutta la vita tra libri e lettori. Nonna Papera sa che sta per andare in pensione e fa finta che le importi ancora di quel lavoro, mentre invece è chiaro che le interessa solo comandare. Però lo fa con classe. Ma lo fa. E a me quella roba lì sta sulle palle. Non la conosco ancora bene, ma c'ha qualcosa che mi puzza. Secondo me questa non è una che fa le torte con le mele. Nonna Papera ha i capelli bianchi e lisci, tenuti insieme in un modo apparentemente semplice, che in realtà è molto ricercato. Ha una fede al dito, cosa che Ciccio invece non porta, e al collo, sopra ad un maglioncino azzurro, ha una collana con delle margherite di legno. A differenza di Ciccio, lei sorride. Ma siccome lo fa troppo spesso, non capisci mai se lo fa per davvero o solo per farti vedere che ti è superiore. Lei è il capo. La sua è la sedia più comoda, l'unica con i braccioli e con le ruote. Noi altri invece stiamo su sgabelli tipo scuola, perché il comune non ha ancora deliberato per le nuove forniture. Per me non è grave, però un po' mi spiace per Ciccio. Oltre a noi tre poi c'è un'altra persona che non è una bibliotecaria. È una ragazza gracile, carina. È una del servizio pulizie. Lei aiuta nei lavori più noiosi, lavori fisici, tipo spostare materiale, buttare i giornali, rimettere a posto i libri. Mi sono sempre piaciuti i mansionari, perché indicano con precisione che cosa devi e che cosa non devi fare. Nel nostro, l'ho letto l'altro giorno, non sono inseriti lavori di fatica, ad esempio. In quello della ragazza, invece sì. È uno strano mondo, no? Non so perché, deve essere perché chi è da questa parte del bancone in teoria è diplomato, mentre quelli che fanno le pulizie in teoria forse no. Ciccio guarda quella ragazza abbastanza spesso, me ne sono accorto. E io lo so che non esiste un posto di lavoro dove non ci siano infatuazioni, sesso, amori, lacrime. È che adesso però sono curioso perché siamo pochi, ma per certe cose siamo fin troppi. Il mio secondo giorno di lavoro è stato abbastanza buono. Sono pronto per i prossimi adesso, con Ciccio, Nonna Papera e la nostra donna di fatica. In biblioteca si imparano un sacco di cose. Sit down there with gotta talk, you're acting like a kid. We don't wanna hear about the things you never did. Can't leave yourself alone for too many days. Sooner than you know, you're gonna stop slipping. Sedici e 23 minuti, Radio 24, io sono qui. Ma scusa, quali amici sei tu a scegliere di incontrare? Colleghi, compagni di scuola o di squadra, è il caso che li sceglieremo. Però no, il caso li sceglie, però poi tu li scremi, no, di solito. Sì, compagni di scuola va d'accordo, però poi gli amici, quelli lì, insomma, un po' te li tieni e quelli che invece non ti servono più non li tieni. Anche se poi, quando si parla di servire, la sensazione è sempre brutta, però alla fine gli amici, no? A quelli servono e quello servi tu agli amici. Il mio collega, che se lo salutavi ti diceva, ma noi abbiamo mai mangiato insieme? Patrizia si ricorderà di lui. Ha ragione, i colleghi si tende a dimenticarli. Fra i vari lavori, due colleghi mi sono rimasti in mente. Uno particolare, un quasi capo, gran fumatore e burbero, ma un grande. E l'altra perché per 2 anni sono stato il suo amante in ufficio, Emilio. Come se questa, poi questa c'aveva l'amante dove? In palestra, l'amante in vacanza. Ciao, ricordo il vecchio maiale del mio titolare. Ci è voluto del tempo, ma lo scorso dicembre è stato dichiarato colpevole di molestie dal tribunale civile. Evviva! Questa è l'unica cosa da ricordare per me e le povere colleghe sue vittime. Ciao! E questa mi sembra una buona nota da ricordare anche per noi. Un grafico editoriale che fischiettava per buona metà della giornata. Mi sono rimaste nel cervello le sue penetranti melodie. Uno strazio quotidiano. Angelo, andiamo invece, cioè rimaniamo a Milano e andiamo a sentire Lorenzo, che invece lavorava con un commerciale con cui credo litigasse. Pronto, Lorenzo? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, tu? Bene, tutto a posto. Sei in macchina? Come leggi tu non legge nessuno, hai delle pause che sono fantastiche. Bene, lo prendo come un complimento. Lorenzo, cosa stai facendo? Sto guidando. Con l'auricolare. Dove stai andando? Allora, sicuramente le cose più divertenti sono le cose brutte. Non ho capito, Lorenzo, scusami. Le cose più divertenti che ti rimangono in testa sono le cose brutte. Fammi un esempio. Allora, questo che ho raccontato alle tue ragazze. Aspetta un secondo, le mie ragazze sono le assistenti al programma, sono Viola e Claudia. No, lo dico, insomma, a beneficio di tutti e del rispetto che devo nei loro confronti. Con massimo rispetto l'ho detto. Bravo, mi è piaciuto. Assolutamente. Dicevi alle mie ragazze. Sì, quelle situazioni che si creano nelle nostre aziende, no? Il dualismo tra il commerciale e il marketing. Spieghiamolo per chi non sappia che cosa sia il marketing o il commerciale, ad esempio. Comunque, il marketing è quello che pensa, il commerciale è quello che lavora. Tu sei un marketing, ovviamente. No, io sono un commerciale. Ah, ok, da come lo dicevi sembrava il cervello e il braccio. No, io sono ho sempre fatto commerciale e sono tuttora un commerciale. Sì, obiettivamente Lorenzo un po' si sente che sei un commerciale, perché sei su di favela, perché c'hai il sorriso sulle labbra, sei sempre pronto a raccontare quella giusta al compratore giusto. No, sono i miei compratori che hanno pena di me, quindi compra. Insomma, raccontami di questo collega te lo ricordi nel male, dai. Questo direttore del marketing che chiaramente voleva avere un suo peso determinante all'interno dell'azienda, quindi sì. Questi dualismi che si creano, no, tra queste due, tra virgolette, fazioni, chiaramente portano a dei conflitti. E avevo avuto una proposta indecente, poi ti spiego cosa vuol dire indecente per me, dalla responsabile del marketing. La proposta indecente era che io dovevo boicottare tutto quello che il mio capo, il direttore commerciale, proponeva, a vantaggio chiaramente del direttore marketing, del marketing, in modo che lui potesse salire e il mio capo potesse essere, scusa l'espressione, trombato. E com'è finita? Quello del marketing ha avuto un sonoro vaffa. Cioè, quindi è di fatto è lui che se n'è andato? O è stato mandato? Dopo che ho saputo questa sua proposta indecente, ho appoggiato ancora di più il mio capo. Ok. E chiaramente ha fatto una figura di palta. Lorenzo, dimmi che cosa vendi, che cosa rappresenti. Lavoro per la più grossa multinazionale americana che c'è al momento. Aspetta, fammici pensare. Allora, Coca-Cola no. È il numero uno in termini di consolidato. Mamma mia, mi dici delle cose. Io lavoro da 24. Fa tutto, tipo dai motori degli aerei alle turbine, al medicale, al servizio finanziario. Guarda, Lorenzo, fai una cosa, tu adesso dici fuori onda che azienda è e vediamo se qualcuno ha capito. 349-238-6666, la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi non so proprio dove siamo, ma perché non è una foto, è un quadro, direi. Cioè, è la foto di un quadro. E c'è una donna, credo, disegnata. Ci sono dei fiori. C'è un. Non saprei davvero, non lo so. Non ce la faccio. Marco Bonfitto, 49 anni, da Cassina dei Becchi, Milano. La primavera nell'anima è il mio ultimo dipinto. Non rappresenta un luogo topografico, bensì mentale, magico eppure reale, dove sbocciano sguardi e fioriscono sorrisi. Perché un cambio di stagione interiore è sempre possibile. Ecco, ora io sono qui. Ecco, Marco a me fa anche tanta simpatia, devo proprio dirlo, perché ci vuole, secondo me, una dose di coraggio per raccontare tutto quello che lui ha raccontato attraverso questa didascalia che ci ha letto del suo quadro che si chiama La primavera nell'anima. ecco, per vederci tutte quelle cose, nel senso che io vedo una donna con le gambe all'aria e con dei disegni sulle gambe e non saprei proprio, andate a vederla, è sul sito, è sul sito radio24.it, è alla pagina di Io Sono Qui. E guardate, magari questa la mettiamo proprio sul profilo Facebook, perché vorrei che anche voi la vedeste, questa fotografia, La Primavera dell'Anima, Marco Bonfitto. È del, tra l'altro del 2000, è un Bonfitto del 2011, come direbbe, assomiglia quasi a un Mutandari. Tu pensa che onestà, lui non sa disegnare, pensa, però ci manda. Marco, grazie davvero. Ecco, poi mi rivolgo a Viola, basta questa roba, basta Viola, prossima volta fotografie che raccontino qualcosa. È iniziata e continua, sono arrivati un sacco di messaggi di persone che cercano di indovinare qual è l'azienda grande multinazionale per cui lavora l'ascoltatore di prima, che lui ha definito la più grande multinazionale americana di sempre. Fa motori, fa roba, e mi piacciono quelli che scrivono e che ti dicono: ma raga, ma dai, ma è Finmeccanica, lo sanno tutti. Ma come Finmeccanica? Ma ha detto che fa tutto, che è americana, la più grande multinazionale. È IBM? È Procter & Gamble? È Philip Morris? No, è la General Electric. Ci hanno azzeccato tipo in 25, ma qualcuno è riuscito a non beccarla. 800240024. Ciao, tra i miei colleghi io sono il più giovane, mi trattano come un figlio, soprattutto la pantera Maurizio. Già dalla questa fa il paio con l'altro messaggio che ha mandato Silvia, che dice: si è fatta tutti in ufficio ma conserva un atteggiamento da suora. Silvia, qui però sento dell'astio. Sento dell'astio della donna con le superga contro la donna con le scarpe col tacco. E allora forse, Silvia, forse è nel tuo occhio che devi guardare la pagliuzza e non la trave. Vabbè, non prendiamo derive bibliche, altrimenti mi caccia immediatamente. Andiamo a sentire però Gioia da Treviso, che ha un racconto lunghissimo. Pronto, Gioia? Ciao, ciao Matteo. Ciao, grazie mille per essere qui. Senti, raccontami di Gino, che era il fratello del tuo capo. Sì, sì, sì, assolutamente. Il fratello, tra le altre cose, più vecchio. Cioè, ma cosa aveva di particolare? Lui, beh, è tuttologo. Sì, vabbè, fino a lì. Eh? E poi, insomma, ha un'idea tutta sua, dico, della sua vita, del lavoro. Infatti nel messaggio dicevo appunto che per lui non c'è un orario di lavoro universale. Cioè, in che senso? Che lavora, ce l'ha fatto ad hoc per lui, oppure quando capita? Sì, ognuno dovrebbe avere il proprio orario di lavoro. Ah, tipo l'orologio biologico? Assolutamente sì. Senti, sì, tra sì. L'altro tu scrivi: l'unico che riusciva a sbellicarsi dalle risate è la battuta "un fungo dice a una funghetta spogliati", ah, sì. E lei arrossendole risponde: porcino. Sì, sì, sì, assolutamente. È la battuta che io facevo ogni tanto. Ah, la facevi tu? Sì, sì, assolutamente, perché a lui benissimo. Piaceva tantissimo. Non ho capito, era un giochino tra di voi, Gioia. Tu sì, sai, sì, sì, avevi azzeccato qual era la multinazionale più grande? No, okay. Non ci ho neanche pensato. Benissimo, altra domanda prima di lasciarti. Tu per caso fai dei quadri in cui ci sono delle donne con le gambe all'aria? No, io faccio il grafico, okay. Però no, quadri... Benissimo, Gioia, ti ringrazio molto, buona giornata. Grazie. Ciao, a te, alla prossima, ciao. Grazie. Era il mio collega ed è diventato il mio capo, in gamba, umano, preparato, umile, gentile e determinato. È il miglior leader che io abbia mai visto e vorrei tanto fargli una dichiarazione di stima, ma non lo farò. E sai perché? Sembrerebbe adulazione e mi dispiace. Tutti i colleghi che ho sono questo è un altro. Però non si firma e quindi niente. E poi un altro messaggio è: tutti i colleghi che ho sono familiari. È un incubo. Elisa di Treiso e non Treviso, scrive, che è un altro paese. Treiso è in provincia di... Adesso qualcuno lo scrive, no, forse Treviso. No, dai, sarebbe assurdo un paese che si chiama Treviso, in provincia di Treviso. È come quelli che si chiamano Giuliano Giuliani. Provincia di Cuneo, mi scrivono già, benissimo. O me l'ha trovato Viola. Andiamo a Reggio Emilia, da Gaetano. Pronto, Gaetano? Ciao, Matteo. Ciao, come va? Abbastanza bene. Raccontami di Paolo, tuo ex collega. Paolo era un mito assoluto. Perché? Lui, allora, il suo incarico, cioè in termini formali, non lo so quale fosse, forse IT manager o una roba del genere. Scusami? Era un IT manager, credo. Cioè? Cioè quelli che si occupano delle telecomunicazioni. Ma scusami, IT hai detto? Sì, IT. Sì. Information technology, giusto? Information technology. Ok, girato. Scusami. Perché lavoravamo in un'agenzia di pubblicità e lui quindi seguiva la connettività internet, i computer, questa roba. Ma adesso non c'è più, immagino. Però, nel senso che la pubblicità è morta, giusto? Lui, beh, non credo, ancora no. Ah, ancora altrimenti, no. Altrimenti tu non saresti. Le agenzie pubblicitarie sono ancora vive? Sono ancora vive, alcune zoppicano, alcune sono defunte, però... Tu cosa fai adesso, Gaetano? Io adesso faccio l'artigiano, per cui... Beh, però mi sembra un segno dei tempi. Lavoravi esatto, in pubblicità, adesso bravo. Fai l'artigiano. Che cosa fai esattamente? Esatto, ma lavoro in legno, diciamo, più o meno il falegname. Cioè, perché più o meno? Perché sei specializzato in qualcosa di particolare? No, faccio dei mobili. Ah, ok. Scusami, torniamo a lui, torniamo al tuo collega, che risolveva tutto, mi sembra di capire. Il mio collega era stato soprannominato Mr. Wolf perché lui risolveva tutti i problemi che sorgevano all'interno dell'agenzia. Ma quindi, era il tipico uomo dei computer, quindi? Aspetta, è stato troppo semplice perché risolveva i problemi relativi alla sua attività, ovvero il computer, però anche impaginazione oppure anche problemi più pratici legati alla location, cioè all'agenzia. Chiaro, capito. Cambiare lampadine, sturare lavandini. Ah, qualsiasi cosa. Una volta un account era convinto che lui fosse proprio il tuttofare dell'agenzia, gli aveva chiesto se gli andava a lavare la macchina. Magnifico. Gaetano, senti, scusami, prima di salutarti, vorresti lanciare un messaggio tu da artigiano del legno, ex pubblicitario, a tutti i giovani che si stanno iscrivendo a una facoltà di scienze della comunicazione o pubblicità o sociologia della pubblicità? Sì, iscrivetevi a un istituto professionale e imparate a fare o l'elettricista o l'idraulico o il meccanico. Grazie Gaetano, buona giornata. Andiamo e chiudiamo con Oreste da Milano. Pronto Oreste? Sì, pronto, ciao Matteo. Ciao, guarda, non ho purtroppo tantissimo tempo, mi sono dilungato con Gaetano, ex pubblicitario falegname. Raccontami di quel collega di negozio, mi pare di capire. Sì, si tratta di un negozio di candidature di cui io ero responsabile. Dove sei? Oreste, ti sentiamo un po' male, sembri in un sottoscala però. Aspetta un attimo, vediamo se riesce a spostarsi. Intanto qua il tempo va, c'è la borsa, GR, chiedo asilo. Niente Oreste, guarda, ci sentiamo un'altra volta, guarda, mi dispiace però dal sottoscala toccava uscire, salire, arrampicarsi sul terrazzo. Una volta dormivo sul lavoro ed il mio capo mi ha rovesciato in testa un secchio di acqua gelata. Ciao Patrick da Bergamo, e forse ci aveva anche un pochettino ragione. Prima di chiudere però voglio leggervi una mail di Francesca che racconta di un collega molto particolare. I miei attuali colleghi di lavoro sono delle perle. Mi vogliono bene e io ne voglio a loro. Prima di loro, però, c'erano gli altri. Di una galleria degna di Madame Tussaud vorrei citarne solo uno. Babalù. Ora, che io sappia, in nessun posto di lavoro, salvo forse un toilettatore per animali, sono ammessi animali domestici. Bene, per un anno io ho diviso il mio loculo, di ufficio difficile parlare in termini di metratura, con Babalù. All'anagrafe Camillo. Pelo nero e bianco, 90 cm al garrese, muso perennemente ringhioso. Il suo padrone, quello che occupava la parte alta della scrivania, proprio non poteva lasciare il suo cucciolo a casa o con qualcun altro. E te credo pure. Il cucciolo era di una ferocia inumana. Chiunque passasse veniva aggredito verbalmente da un ringhio assetato di sangue e se il guinzaglio si allentava, rischiava pure di essere azzannato. Io non ho mai avuto paura dei cani, ma a Babalù mi sono avvicinato con molta cautela. Alla fine siamo anche diventati amici. Quello però che mi sono sempre domandata è A. Perché la dirigente nostra di rimpettaia permetteva che la belva dimorasse e spaventasse tutti quanti nei nostri uffici? B. Dato che evidentemente Babalù aveva un ruolo di guardiana dell'ufficio, un ruolo che peraltro ricopriva con severo attaccamento al lavoro, che cosa faceva invece il suo papà, quello che stava sopra la scrivania? Oggi ho cambiato ufficio e i miei ex colleghi hanno cambiato sede. Nei corridoi aleggia uno strano silenzio. E il crimine ci circonda. Babalù se n'è andato e i topi ballano. C'è un indirizzo mail che è iosonoqui@radio24.it a cui potete mandare sia le foto, magari, vi prego, non le foto dei vostri quadri, ma le foto di cui le foto dei luoghi in cui vi sentite di essere, che siano a casa vostra oppure no, che siano fuori da casa vostra, che siano luoghi irreali, ma magari meglio se reali, ma anche dove mandare dei racconti, visto che ci sono alcuni ascoltatori che continuano a spedirmi racconti della loro vita, in particolar modo Luca di cui siamo ormai al capitolo 6, se non ricordo male, e di cui vi leggerò nei prossimi giorni. Io sono qui, @radio24.it. Grazie a Viola, grazie a Claudia, grazie a Roberto Scaltritti, a Stefano D'Andrea e a Tiziano Bonini. A proposito del quadro che è stato mandato oggi, da cui veramente ho provato ad allontanarlo dai miei occhi, ma non ce la faccio, è più forte di me, andate a vederlo sempre. Io sono qui sulla pagina Io sono qui di radio24.it. Mi scrive però Fausto da Brescia e mi conforta, perché mi dice: io ho anche un Fuki ed uno Stacolanana del 2001, manca un Mutandari e ce li abbiamo tutti.